1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ci siamo a leggere i giornali, cari ascoltatori, alle 7:19 minuti. Oggi di cosa parleremo? Beh, avremo ospite Vladimiro Crisafulli. Vi ricordate colui che è stato ritenuto incandidabile dal PD in Parlamento, vuole candidarsi sindaco a Enna, questa alle 8:40. Poi faremo il punto anche di che cosa? Beh, della legge sulle coppie di fatto, sulle unioni tra omosessuali. C'è una senatrice, la senatrice Cirinnà, che sarà ai nostri microfoni insieme al direttore del Messaggero Veneto Tommaso Cerno per capire a che punto è questa legge, ora che anche da destra propongono una legge. Il testo, per la verità, ancora non c'è, è stata prima firmataria l'onorevole Carfagna, ex ministro Carfagna. Vogliono proporre una legge simile, evidentemente, ma ci saranno i tempi per farla. Quando verrà fatta, se verrà approvata, ne discuteremo dalle 8:15. Intanto andiamo a leggere i giornali. In questo mercoledì 25 marzo i titoli: Il Sole 24 Ore apre sulle popolari, la riforma è legge. È lo stesso titolo, anche se con declinazione diversa, più critica esplicitamente, di Avvenire. Sempre meno popolari, è diventata la legge, la riforma che cambia natura alle banche a voto capitario che crescono di più. Avvenire da sempre è stata critica di questa riforma delle popolari, delle banche, voluta dal governo. Poi ovviamente i titoli principali sono per la tragedia aerea del volo Germanwings da Barcellona a Düsseldorf. Corriere della Sera: 8 minuti nel vuoto, poi lo schianto. Per Repubblica, Airbus, la strage del mistero. La Stampa: il mistero dell'Airbus precipitato. Il Messaggero: Airbus, i misteri dello schianto. Libero: i misteri dell'aereo caduto. Come vedete, la chiarezza davvero è ancora lontana da venire. Il Fatto Quotidiano invece scende sul campo politico. Renzi: mai più prescrizione, poi 4 mesi di farsa. Questo è il titolo di prima pagina. Così anche Il Giornale: processati a vita, schiaffo ai cittadini, passa la norma che allunga ulteriormente i tempi dei procedimenti. E NCD finge la linea dura, poi si piega. Però voglio partire proprio dalla tragedia aerea. Ovviamente sono tantissimi i dubbi, oltre che il cordoglio per la disperazione, anche qui raffigurata da molte foto. Pensate che chi è arrivato sul posto dice che l'aereo è in pezzi piccolissimi. Potete immaginare anche i corpi dei 144 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio che erano a bordo del Germanwings. Volo 9525 da Barcellona a Düsseldorf è solo mistero. Nessun segnale di emergenza, mistero sulla discesa improvvisa. Leggo l'articolo di Stefano Montefiori che racconta da Levernay questo paesaggio, questo piccolo villaggio della Francia dove si è schiantata a 1500 metri l'aereo. L'aereo che è apparso all'improvviso tra le montagne, dicono gli abitanti del paese più vicino al luogo dell'impatto. Stava trasportando 144 passeggeri, 6 membri dell'equipaggio. Apparecchio partito da Düsseldorf all'alba verso Barcellona e dopo il rifornimento da Barcellona ha fatto rotta in direzione opposta. Alle 10:01 il decollo da Barcellona arriva in quota. L'aereo volava a 11.500 metri a una velocità di 900 km orari. Alle 10:30 il controllore di volo di Aix-en-Provence ha lanciato l'allarme perché ha notato una perdita di altitudine e i piloti non rispondevano. Secondo le procedure antiterrorismo, c'è anche un Mirage 2000 dell'aviazione militare francese che si leva in volo per cercare di stabilire un contatto visivo. All'inizio della discesa l'aereo voleva ancora più o meno, volava alla stessa velocità. Non è caduto in picchiata. Alle 10:41, ultimo segnale registrato, viaggiava ancora a 700 km orari. Tra le 10:32 e le 10:41 l'Airbus 320 ha perso 9.500 metri di altitudine. È l'elemento più incomprensibile, 8 minuti nei quali nessuno dei due piloti è riuscito a lanciare il Mayday, la richiesta internazionale di aiuto. Poi l'impatto con la montagna, il motivo del disastro ignoto, ci vorrà tempo. Certo, l'unica cosa che aiuta e aiuterà a capire che è stata già recuperata la scatola nera. Ovviamente ci sono le ipotesi, tra le ipotesi non è escluso nulla, anche un atto di terrorismo. Sempre il Corriere della Sera, pagina 5, racconta che cosa? Le varie ipotesi. Una è, per esempio, che per un evento da determinare siano svenuti tutti a bordo. È successo, per esempio, racconta il Corriere della Sera, nel volo della Helios Airways del 2005 precipitato vicino ad Atene. Problema alla valvola d'impianto di pressurizzazione, gli allarmi male interpretati, piloti e passeggeri che perdono i sensi, l'aereo si schianta dopo aver terminato il carburante. Però ovviamente si parla anche di un difetto. Ci sono certamente, questo è da notare, gli allarmi sicurezza, e così i piloti e tutto il personale ha bloccato di fatto gli altri aerei della Germanwings. No, oggi non prendiamo i comandi, oggi con quegli aerei noi non voliamo, prima chiarezza sulle condizioni tecniche dei jet e solo dopo si decolla. Così a Berlino, racconta Repubblica Andrea Tarquini, hanno reagito con un passaparola tra piloti, hostess, assistenti di volo, quindi, piloti, i comandanti, tutto il personale della Germanwings, gran parte del personale della Germanwings ha deciso di incrociare le braccia bloccando tutti i voli. La sicurezza su tutto. Ovviamente c'è il dibattito anche sulle low cost, c'è da dire che è la prima volta che succede una tragedia del genere per una low cost in Europa. C'è chi dice ora non prendetevela con i low cost. Il Corriere invece cita un pilota che preferisce l'anonimato e dice: guardi in faccia i comandanti delle compagnie di linea, guardi in faccia quelle delle low cost. Nel primo caso hanno dai 40 anni in su con esperienza, nel secondo trova anche sbarbatelli di appena 30 anni. Vabbè, questa è la polemica che c'è, su tutto però rimane la tragedia. Io voglio saltare invece a raccontare quella che è stata la scelta, come definita da molti nei titoli, la scelta di Angelina Jolie, che è diventata già celebre in tutto il mondo perché due anni fa o un anno fa aveva deciso di sottoporsi a una mastectomia preventiva bilaterale, entrambe le mammelle, per prevenire il rischio di insorgenza del cancro. Ora ha deciso anche di rimuovere le ovaie perché è portatrice di questo gene BRCA1 che aumenta di molto il rischio di insorgenza durante la vita del cancro, appunto al seno, alle ovaie. E questa decisione è stata raccontata dal New York Times con la firma Angelina Jolie Pitt e viene pubblicata da Repubblica a pagina 19 questo racconto. I geni mi predicevano un tumore, così ho tolto anche le ovaie. Alle donne dico: sapere è potere. È un lungo racconto, due anni fa racconta della mastectomia e poi la decisione, dopo aver parlato con tanti medici, dopo aver visto anche degli esami con i marker infiammatori con valori molto elevati, sono passata attraverso quello che immagino vivano e provino migliaia di altre donne, mi sono imposta di restare calma, di essere forte, di pensare che non c'era motivo per cui dovessi temere, di non vivere abbastanza lungo da veder crescere i miei figli, conoscere i miei nipotini. Ho telefonato a mio marito in Francia, nel giro di poche ore lui aveva già preso un aereo. Il bello di questi momenti della vita è che c'è una grande nitidezza. Sai qual è lo scopo della tua vita, cosa conta davvero, cosa la guida e cosa le infonde pace. Quel giorno stesso sono andata a farmi visitare dalla chirurga che aveva avuto in cura mia madre e l'ultima volta che l'avevo incontrata era il giorno in cui mia madre morì. Non appena mi ha vista mi ha detto: le assomigli proprio, sono crollata anch'io. Poi però abbiamo sorriso e concordato sul fatto che eravamo lì per occuparci di un problema. Racconta poi l'operazione e dice Angelina Jolie: è impossibile azzerare ogni rischio, dunque io resto esposto al tumore, cercherò rimedi naturali per rafforzare il mio sistema immunitario, mi sento donna, una donna che coi piedi per terra ha preso decisioni che riguardano tanto lei quanto la sua famiglia. So che i miei figli non dovranno mai dire mamma è morta di cancro alle ovaie. Non è facile prendere questo tipo di decisioni, tuttavia è possibile assumere il controllo, affrontare di petto in prima persona qualsiasi situazione che riguarda la nostra salute, raccogliendo pareri e valutando le varie opzioni disponibili che più si adattano a noi. Sapere è potere. così Angelina Jolie, ovviamente la discussione è aperta su tutti i giornali, la lotta continua, titola il Messaggero, la scelta appunto per il Corriere della Sera, con il dibattito che ne segue. Io però voglio lasciarvi prima della pubblicità con il classico articolo che ci fa zare, l'articolo che ci fa tenere le mani strettissime sul volante se siete alla guida, in treno ovviamente mi raccomando, mani sui braccioli, posizione di atterraggio di emergenza. E che dire, i fondi per i migranti spesi in fiere di paese e contratti ai parenti. È La Stampa con Fabio Albanese che racconta l'indagine della procura di Caltagirone sull'ultimo centro per identificazione dei migranti. Arrivano i soldi, per la verità a Castiglione nessuno lo voleva, a Caltagirone scusate, nessuno lo voleva. La procura di Caltagirone apre l'indagine perché il procuratore vede l'uso di una parte dei fondi per organizzare la sagra dell'uva, la festa di Santa Lucia, il Natale di Mirabella, il presepe vivente di Vizzini, e poi anche utilizzati i soldi per fare contratti a persone imparentate con sindaci, assessori, ex assessori di tutti gli schieramenti. Evviva! Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Allora, la prescrizione lunga, è arrivato il primo sì alla Camera, riforma che allunga i tempi di prescrizione soprattutto per la corruzione, per questo reato basato su un patto di omertà tra due o più soggetti, i tempi massimi per svolgere il processo si impennano oltre 21 anni. Questo è il tema politico del giorno. Arrivato il primo sì, il giornale dice ecco saremo tutti processati a vita. Il ministro Orlando invece è ministro alla giustizia, come racconta Giovanni Bianconi nel retroscena a pagina 11, dice beh le toghe, i magistrati diranno ancora che non basta, tanto diranno che non va bene, per loro quello che facciamo è sempre insufficiente, ogni volta il problema è più complessivo, sulla responsabilità civile, sulla corruzione, sulla prescrizione, capisco le ragioni del loro sindacato, ma non è sulla base di quelle esigenze che si può valutare ciò che stiamo facendo. Il governo deve andare avanti, fa capire il ministro, anche se stavolta ha rischiato di perdere un pezzo di maggioranza, quelli di centrodestra che sostengono il governo si sono astenuti. So anch'io, ha detto Orlando, che sarebbe stato meglio approvare una riforma organica, ma abbiamo dovuto prendere atto che la Camera ha voluto stralciare la parte sulla prescrizione, forse anche sulla spinta degli ultimi scandali legati alla corruzione. Comunque, allungati i tempi di prescrizione, questo almeno alla Camera c'è il primo sì, con qualche tensione appunto nella maggioranza, si pensa però alla politica, la politica terremotata dopo la vicenda Lupi, tanto che Renzi pensa al rimpasto, ma il titolo del retroscena di pagina 10 di Repubblica a firma Francesco Bei è questo: il rimpasto slitta e per il dopo Lupi Renzi valuta l'ipotesi Speranza, che non è un'invocazione, è il capogruppo del PD alla Camera, Roberto Speranza, oppure un altro esponente di area riformista al Ministero delle Infrastrutture. Questa è la mossa del cavallo su cui starebbe ragionando Renzi in queste ore, cioè coinvolgere nell'esecutivo qualcuno della minoranza del PD che si è riunita attorno all'Acquario Romano contro di lui. È insomma una fotocopia dell'operazione fatta con la segreteria unitaria del Nazareno. Questa sarebbe la mossa eminentemente politica, cioè coinvolgere qualcuno della minoranza PD, visto che ieri ancora Bersani ha detto non voteremo mai questa legge elettorale. Ebbene, Speranza è uno della minoranza, è bersaniano, quindi coinvolgerlo nel governo. Il commento migliore, racconta Repubblica, forse del senatore Lauricella, che è della minoranza PD. Dalle mie parti direbbero che Renzi ci sta facendo odorare la sarda, nel senso che ci sventola sotto il naso un posto di serie A, ma secondo me quel ministero se lo tiene per uno dei suoi. Politica, politica, politica, staremo a vedere. Intanto le indagini sulla presunta corruzione, gli appalti presunti dell'alta velocità e non solo delle opere pubbliche continuano a Firenze e non solo, anche a Roma. Ebbene, che cosa spunta? Spuntano le buste coi soldi, questo almeno giurano i PM, trovate a casa di Perotti, in libreria, in mezzo ai libri confuse, due buste contenenti entrambe 2.120 euro e un fogliettino con la contabilità delle tangenti, così assicurano i carabinieri del ROS, trovati nell'ufficio della Greenfield System, riconducibile al manager Stefano Perotti, racconta Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, pagina 15, documenti sequestrati. Queste buste, con 2.110 euro per la verità, due buste, all'interno di una però, insieme al denaro, un foglio con dei calcoli numerici manoscritti da cui si evince che la somma di denaro iniziale ammontava a 53.000 euro, da cui sono state detratte alcune somme per un totale di 50.890 euro. Sarebbero tangenti, questo almeno giurano i magistrati. C'è anche nell'ordinanza la frase del giudice che scrive: emerge con estrema chiarezza che Angelo Antonio Pica, attuale presidente della Greenfield, ha versato in favore di Pacella e Incalza somme lamentandosi così: siete voraci, siete come le lumache. E vabbè, intanto parla il vice ministro dei trasporti Nencini, tirato in ballo in qualche intercettazione da persone che parlano di lui e che dicono di voler piazzare delle persone a nome di Nencini. Lui, al Corriere della Sera, intervistato da Virginia Piccolillo, dice: sono indignato, sono incavolato come una iena a chiedere all'indagato Burchi di far lavorare tre compagni. Non sono io, è il direttore dell'Avanti Online, Mauro Del Bue, suo amico da anni. Sì, però Del Bue spende il suo nome. Non l'aveva mandato lei, vice ministro? Ma assolutamente no. Del Bue lo ha anche dichiarato, è una telefonata tra amici. Io non ho mai chiesto a Del Bue di parlare né con Burchi né con altri. È una cosa tra di loro. Però anche il suo capo segreteria, Fabrizio Magnani, si rivolge a Burchi chiedendo se ha spazio per qualche nomina. Ma anche Magnani lo conosce da 10 anni. Ma allora, io non so neanche chi sia questo Burchi. Non è che lo dico io, lo dice proprio lui in una telefonata chiedendo di essere presentato a me. Infatti una volta me lo presentarono una rapida stretta di mano. Comunque, io sono diventato vice ministro perché mi ha chiamato Renzi. Non c'è nessun mistero, tantomeno una sponsorizzazione. Sono segretario di un partito, cioè il PSI, che sostiene il governo. E all'ultima domanda: guardi che lei aveva 30 anni all'epoca di Tangentopoli, non la sfiorò, rivendica di essere stato uno degli ultimi socialisti, perché? Beh, come dice Balzac, chi fa della vita una cronologia fa la storia degli sciocchi. Noi siamo uomini con le nostre cadute e le nostre virtù. A proposito di tangenti, Tangentopoli 1992, tra l'altro ieri è iniziata 1992 su Sky, e questa fiction che Paolo Colonnello della Stampa guarda a fianco a Di Pietro, cioè prime due puntate guardate a fianco a Di Pietro. Questa è fiction, Mani Pulite invece è storia, sulla Stampa pagina 11, già la prima inquadratura si preoccupa di Pietro. Oh, ma non è che quello lì con le chiappe all'aria sono io? No, non è lui, è lo Zanza, anzi lo Zanzone, come veniva chiamato Di Pietro dagli allora giovani cronisti di Mani Pulite, a significare la scaltrezza, la furbizia contadina. Si accomoda sul divano, chiede un caffè, ride di gusto. Ah no, meno male, ecco, non sono io. Ah, ecco, sono quello lì, ecco, c'ho anche il gilet bordeaux che usavo allora. E poi, insomma, seguono le prime due puntate, tra vari commenti, dice un po' troppo sesso, noi comunque non utilizzammo mai il gossip per scoprire le tangenti, e poi però Di Pietro in questa conversazione con Paolo Colonnello fa un'ammissione abbastanza importante: io sindaco di Milano, ma con quale partito? E poi, prima che finisca la serie in TV, lo dico subito, se c'è un errore che non rifarei è quello di mettermi in politica. Mannaggia! Così parlò Antonio Di Pietro. Se c'è un errore che non rifarei è quello di mettermi in politica. C'è ancora molto sull'ANAS. Beh, l'ANAS, perché Ciucci, che è il presidente, è rimasto unico membro attuale del consiglio di amministrazione dopo essersi dimessa Maria Cannata, che era l'esponente del Tesoro. si è dimesso anche Dondolini, che l'ha scelto da Lupi, è rimasto solo nel consiglio di amministrazione. Sia il Corriere che il Fatto, Autostrade, abbandonato Ciucci, addirittura su Repubblica si dice è abbastanza certo che Renzi voglia fare saltare il presidente dell'ANAS Ciucci, questo nel rimpasto politico che ci sarà al Ministero, ma di queste cose parla molto anche il Sole 24 Ore, perché oggi intervista Signorini, Paolo Emilio Signorini. Chi è? Lo chiedo a Mauro Meazza. Buongiorno Maurino. Buongiorno, buongiorno. Diciamo in estrema sintesi, il successore di Incalza in qualche modo. Quindi le sue affermazioni nell'intervista di Claudio Gatti diventano particolarmente interessanti. Facciamo la svelta che sto spostando tutti i libri per vedere se ci sono delle buste. Quindi, con due urini magari. Due urini. Magari due urini, però tutto può fare. Guarda che oggi è una giornata importante dal punto di vista proprio di urini, caro Alessandro, perché a parte che, come ti annunciavo ieri, oggi trovi un tabloid, un inserto di 16 paginette, paginone dovrei dire, per la voluntary disclosure, ma si può anche dire rientro dei capitali. E tu sai di cosa sto parlando. Tu pure. Poi c'è la questione del decreto sulle banche popolari, trasformazione in SPA, con anche le novità per la portabilità, la trasferibilità più facile dei conti correnti, quindi restiamo ancora in tema di denari. E per questo sto cercando affannosamente, sto spostando i libri. Poi però ti voglio anche dire che mi hai dato un'idea, però controllare a casa in mezzo ai libri, puoi spostare i libri anche tu, guarda, segnatelo magari, fatelo tutti, cari italiani, non sapete mai cosa si trova in una libreria. Ti vorrei anche segnalare che però, sempre in tema di banche, ohimè, si va verso un altro sciopero dei bancari, perché come già dicevamo ieri, la trattativa non procede bene, tutt'altro, e ne riferiamo oggi nelle pagine di Imprese e Territori. Se trovi qualcosa nei libri di casa, sì, per favore non spenderlo, perché ho letto sul Sole 24 Ore di oggi che rischiamo una multa sui 420 milioni di euro l'anno per mancanza di depurazione rete fognaria in un migliaio di centri italiani. No, anche io e te, siamo italiani pure io e te, l'Italia, 428 milioni bisogna tirarli fuori. I due urini sono già impegnati, molto bene. No, per quello ti inviterei, sposta un po' di libri, vedi un po', perché poi si avvicina ovviamente la stagione della dichiarazione dei redditi e quindi c'è la precomplicata, la precompilata. L'ho sentita a un convegno però. La precompilata, la pre... com'è che è la... complicata. Precompilata. Vabbè, è un gioco di parole per il quale l'Agenzia delle Entrate mi odierà, però ti voglio dire che ci sono delle indicazioni operative molto chiare su che cosa ci sarà e cosa non ci sarà, e dovremo quindi aggiungere nel precompilato. Vi do l'indirizzo di Mauro Meazza per l'Agenzia delle Entrate, ovviamente. No, via. Hanno il mio codice fiscale, tranquillo, MZZ, MRA, eccetera, eccetera. Vadano tranquilli, intanto io cerco nei libri. Okay. Ultima cosa, se vuoi il TFR anticipato in busta paga, leggi il Sole 24 Ore di oggi, sappi che però lo chiedi adesso, ma l'erogazione avviene da luglio. Questo te lo voglio segnalare. Vabbè. Quindi intanto cerca, in questi tre mesi cerca nei libri. Andate sul nostro sito www.radio24.it. Qualcuno ci dice, ma c'è qualche problema. Vabbè, è tutto nuovo e quindi c'è qualche problemuccio, lo stiamo sistemando, però non fate quelli subito i criticoni. Andate soprattutto nella nostra sezione 24 mattino, che è arricchitissima o arricchiterrima. Forza, andatevi a scoprire tutte le novità. C'è anche qualche foto di Lorenzo Nespoli strappato direttamente da Uomini e Donne e messo nella nostra redazione. Allora, che è successo ieri? Veramente un fight da ring in 5 round tra il sottosegretario, la sottosegretaria alla cultura Francesca Barracciu e... Alessandro Gassman, attore. Voi direte, ma che ci azzeccano i due, per usare la terminologia di Di Pietro? È che Alessandro Gassman ha usato Twitter per dire quello che pensano anche alcuni cittadini, cioè Come mai, visto che Francesca Barracciu, su cui pende, racconta a Repubblica una storia giudiziaria di rimborsi spese non troppo giustificati quando era il Consiglio regionale della Sardegna, perché non si dimette, ha chiesto Gassman in un tweet, perché mentre chiarisce non lascia la poltrona pagata da noi? E la sottosegretaria si è inviperita, ha risposto così: chiarirò a fondo. Intanto lei, che intanto che impara a fare l'attore, può evitare di far pagare il biglietto del cinema per i suoi film? Grazie. E da lì ovviamente il putiferio. Poi quando succedono queste cose, se siete su Twitter, a volte è una noia mortale, gente che non ti conosce che ti insulta, gente, io rido di tutti ovviamente, però è così. Al che Gassman ha risposto con mettendo l'immagine di un raschietto di marca Staccapollo, l'utensile per scollare il politico indagato dalla poltrona. E Gassman si gode anche un po' il successo, fa due interviste al Fatto, a Repubblica, e dice a Repubblica: ma le sembra una risposta quella del sottosegretario? Comunque in poche ore ho acquisito oltre 3.000 follower su Twitter, quindi vi prego insultatemi, dice Alessandro Gassman, intervistato da Repubblica. Mentre sul Fatto Quotidiano: il paese muore di corruzione, Barracciu lasci. È vero che non è condannata, non faccio politica, ma certo io leggo, ascolto. Che però aspettasse lei l'esito dell'indagine, nel frattempo si autosospendesse dalla carica che ricopre, beh, questo lo chiederei. Non dico assolutamente che è una ladra, sarebbe stato grave rimanere in silenzio. Barracciu chiarisca la sua posizione e poi rientrerà nella posizione di governo. Questo Gassman. Certo, chiarire la posizione in Italia a volte campa cavallo, magari la vicenda processuale dura 15 anni e poi ci sono passati 5 governi nel frattempo. Questo è un problemuccio che magari Gassman non ha sottovalutato nel suo tweet. E comunque un vero round, o 3-4 round, tra Gassman e Barracciu. Barracciu che peraltro poi su Twitter ha in qualche modo chiesto scusa, dice: si esagera su Twitter, chiedo scusa. Vabbè, invece cosa dovremmo dire di questo consigliere comunale dell'Aquila, Gianni Padovani, pizzicato, non poteva usare la macchina e già ha preso la macchina senza patente, gli era stata sospesa, ma aveva il bisogno di uscire, ha preso la macchina. Tanto ha detto: chi vuoi che controlla la patente? Però ha tamponato una macchina, ma non una macchina qualunque, la macchina dei carabinieri. E al che a quel punto dice: vabbè, sono spacciato, cioè scendono i carabinieri, mi beccano. No, ha dato le generalità del fratello gemello. Gianni Padovani tampona i carabinieri, si spaccia per il gemello, nei guai consigliere del PSI, pagina 5 di Libero. Capite poi che vi dico di tenere le mani strette sul volante, voi mi capite? Quando ci sono queste notizie anche sul Secolo XIX in prima pagina: patente sospesa, si finge il gemello per non pagare la multa. Beh, più che la multa, insomma, guidare con la patente sospesa credo che sia anche più di una multa, non lo so, fatemi sapere. Beh, certo, però succede questo. Come succede, racconta Il Giornale, il peso del fisco, questa è anche una notizia di quelle che mi ha colpito molto: le tasse oltre il ridicolo, arriva l'IMU sulla funivia e perfino sull'ombra. Beh, sull'ombra adesso. Comunque Giampaolo Iacobini racconta della sentenza di Cassazione che ha equiparato i gestori delle funivie a semplici commercianti, stabilendo che l'IMU deve essere pagata anche sulle funivie. Sulle Dolomiti sono già una ventina di aziende sull'orlo del fallimento. Per rispettare il volere della Suprema Corte dovrebbero sborsare ogni anno 25.000 euro per una seggiovia a 6 posti, 50.000 euro per una telecabina. È assurdo, ha spiegato Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione Nazionale dei Funiviari. Nessuno le ha dato ascolto e le gabelle non fanno ormai più notizia. Giampaolo Iacobini sul Giornale, leggete a pagina 9: le tasse oltre il ridicolo arrivano dopo una sentenza della Cassazione, anche le tasse sulle funivie e il rischio di far fallire qualcun altro. E Ale. Beh, che dire, Siamo quasi in chiusura? Sì, ci sarebbe tanto ancora da leggere, ma vabbè, come al solito non c'è tempo. Certo, Luciano Moggi che titola in prima pagina di Libero: Calciopoli non è mai esistita. Io vi giuro, mi sono ribaltato dalle risate sulla sedia e mi stavo cappottando. Ho riso così per un quarto d'ora, mi hanno soccorso con un po' di ossigeno per farmi riprendere. Ma Libero vince ora la carta costa, oggi, con l'articolo più inutile scovato sui giornali, una pagina della disfida tra la Litizzetto e le suore di clausura di Napoli. Ma chi se ne frega!